Padre Tito Brandsma è un carmelitano olandese che i nazisti uccisero nel campo di concentramento di Dachau. È stato proclamato beato dalla Chiesa perché andò incontro alla morte consapevolmente, volutamente, per difendere i principi cristiani contro il mostro che allora divorava l'Europa e le coscienze. E il fatto che egli sia uno dei pochi che abbia ottenuto la qualifica teologica di martire, se si pensa che morirono migliaia di sacerdoti e di laici, ugualmente imprigionati a motivo della loro fede, dipende anche da una circostanza provvidenziale. Infatti, prima della fine della guerra, la polizia di sicurezza, come veniva allora chiamata, distrusse tutti gli archivi e tutta la documentazione relativa ai prigionieri. Ma il fascicolo di padre Tito, cioè i verbali dei processi, le prove a carico, gli appunti dal carcere e anche il ritratto in uniforme da internato, ritratto fatto da un suo compagno di prigionia, fu salvato dall'inceneritore. Infatti la persona che era stato incaricato di distruggerlo non ebbe il coraggio di eseguire l'ordine. In queste carte, disse, c'è qualcosa di straordinario, non ho il coraggio di bruciarle. Così, cari amici, la Chiesa ha avuto a disposizione le prove necessarie che dimostrano, oltre ogni possibile dubbio, che padre Tito fu ucciso proprio in odio alla sua fede e alla sua missione di sacerdote, e non solo per motivi politici. Il nostro beato nacque in Olanda il 23 febbraio del 1881 nella Frisia, verso il Mare del Nord. Nasce in una famiglia profondamente cristiana, è una famiglia di contadini. A 17 anni entrò tra i carmelitani nel convento di Boxmeer. Nel 1905 divenne sacerdote a soli 24 anni. L'anno successivo andò a Roma a frequentare gli studi di filosofia all'Università Gregoriana, da dove uscì laureato nel 1909. Tornato in Olanda, si dedicò all'insegnamento ai giovani frati carmelitani e contemporaneamente ebbe modo di inserirsi anche nel mondo del giornalismo, collaborando a vari giornali olandesi. Nel 19 divenne anche redattore capo del giornale Città di Os. Arriviamo nel 23, quando viene fondata a Nimega l'Università Cattolica e a padre Tito viene offerta la cattedra di filosofia e di storia della mistica. Ed è soprattutto questa materia che lo attrae. Si specializza quindi nello studio dei grandi mistici carmelitani e nella ricerca sui mistici medievali olandesi. E sulla sua vita di consacrato non abbiamo molto da dire, se non che gli riscuote la stima di tutti per la serietà, per la carità, per l'amore, anche con la bontà con cui vive questa sua vocazione religiosa e anche quelli che sono i suoi impegni professionali. E quando Hitler sferrò l'offensiva contro l'Olanda il 10 maggio del 1940 e la conquistò in 3 giorni con un'incursione aerea che distrusse a terra quelle che erano le poche forze di cui quel paese disponeva, il nostro padre Tito la sua lotta l'aveva già ingaggiata da tempo. Non era uno sconosciuto. Aveva allora 59 anni, dicevamo che era professore di filosofia all'Università Cattolica di Nimega, di cui era stato anche rettore magnifico. Aveva la tessera internazionale di giornalista ed era assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici olandesi. Era inoltre uno stimato conferenziere noto in tutta Europa e anche oltreoceano, e i suoi studi di spiritualità facevano testo. La sua bibliografia enumera tra libri e articoli 796 titoli. E infine nel 1935 i vescovi olandesi gli avevano affidato il non facile compito di assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici. E proprio, cari amici, questa sua posizione di giornalista dava molto fastidio al nazismo, perché il nostro padre in mille modi aveva contrastato questa sua politica di espansione e soprattutto quella di soppressione degli ebrei. Aveva scritto padre Tito: «Ciò che si fa ora contro gli ebrei è un atto di vigliaccheria. I nemici e gli avversari di questo popolo sono davvero meschini se ritengono di dover agire in maniera così disumana, e se in tal modo pensano di manifestare o di aumentare la forza del popolo tedesco, ciò è l'illusione della debolezza». Non è difficile immaginare come dovessero bruciare queste espressioni a quelli che pretendevano di imporre il culto della razza ariana, declamandone la forza, la nobiltà e la superiorità. E a questo proposito, proprio un quotidiano importante di Berlino, in un articolo lo apostrofava quel professore maligno, e si rispondeva a padre Tito dicendo che gli ebrei di Germania, quelli che si comportano in maniera tranquilla e intelligente, scriveva questo quotidiano, avevano a disposizione abbondanti occasioni di esprimersi e di svilupparsi. Perciò, concludeva questo giornalista, il professor Brandsma doveva solo consigliargli su come prosperare meglio. Nel frattempo, i nazisti facevano circolare in Olanda la voce che quel frate avesse simpatie comuniste. In quel periodo venne redatta anche la costituzione del Partito Nazionalsocialista Olandese. Viene redatta nel 1936 e qui subito i vescovi olandesi proibiscono ai cattolici di aderirvi. L'anno successivo, nel 1937, lo stesso Pio XI promulga l'enciclica Mit Brennender Sorge, in cui definisce il nazismo provocante neopaganesimo, rinnegamento dell'unica chiesa, manifesta apostasia. Nel 1938 la Santa Sede chiede a tutte le università cattoliche di confutare su basi scientifiche le teorie nazionalsocialiste, in modo da aiutare i credenti in una resistenza anche culturale. Padre Tito prende la palla al balzo. Nell'anno scolastico 38-39 offre ai suoi studenti dei corsi sulle funeste tendenze, dice lui, del nazionalsocialismo, in cui affronta i nodi principali, cioè valore e dignità di ogni singola persona umana, sia che sia una persona sana o ammalata, e ancora uguaglianza e bontà di ogni razza, valore indistruttibile e primario delle leggi naturali rispetto ad ogni ideologia, presenza e guida di Dio nella storia umana contro ogni messianismo politico e ogni idolatria del potere. Nelle prediche poi approfondisce l'aspetto religioso della questione, spiegando che ogni esaltazione della razza, della purezza etnica, della forza, è un tentativo di abolire il Vangelo e di colpire al cuore la fede cristiana. Ma non si ferma, com'è da par suo, non si ferma a quelle che sono solo le denunce verbali. Nel 1940 collaborò a un piano per permettere a 1000 ebrei di emigrare in Brasile, e il permesso del governo brasiliano è stato ottenuto direttamente da Pio XII. All'inizio del 41 i vescovi olandesi dichiarano che l'appartenenza al movimento nazionalsocialista è illecita sotto pena di peccato grave. E padre Tito spiega che l'invasione di una simile ideologia, che definiva nera menzogna, era più terribile della stessa invasione militare. Era un uomo, pensate, di 59 anni, dicevamo, un uomo malaticcio. Di salute precaria lo era stato per tutta la vita. Proprio per questo, negli anni della formazione, aveva dovuto interrompere spesso gli studi. Era stato costretto, proprio per la salute malferma, a ritardare gli esami e aveva dovuto perfino superare un attacco di tisi, quindi lunghi mesi a letto tra la vita e la morte. E proprio subito dopo l'invasione deve farsi ricoverare in ospedale perché, dice, le gambe non mi sorreggono più e le mie ginocchia si piegano ad ogni istante. Ad un amico scrive: per fortuna posso ancora occuparmi di ciò che è indispensabile e per il resto mi piego con pazienza. Ciò che è indispensabile, cari amici, è la lotta mortale che sta per intraprendere. Arriviamo così, cari amici, al 20 febbraio del 1941, quando il Monitore olandese pubblica una disposizione del nuovo ministro dell'educazione, in base alla quale i membri del clero e i religiosi che insegnano nelle scuole statali si vedono decurtato lo stipendio al 60%. Dopo 4 giorni si aggiunge che essi non possono in alcun caso ricoprire ruoli di responsabilità, anzi, devono essere esonerati nel caso che già li posseggano. Padre Tito, che è anche presidente dell'Unione Scuole Cattoliche in Olanda, chiede al segretario generale del ministero il motivo di questa decisione. Gli rispondono brutalmente che non c'è altro scopo che quello di tagliare le sovvenzioni alla Chiesa. Anzi, dopo alcuni mesi giunge la disposizione che proibisce anche alle scuole cattoliche di ricevere alunni ebrei, anche se convertiti. Devono essere tutti espulsi dalle scuole di ogni ordine e grado. Padre Tito invia allora una circolare e scrive: «Noi consideriamo come un'ingiustizia cocente e come un attacco alla missione della Chiesa il fatto che si tolgano di forza dalla scuola persone appartenenti a questa Chiesa o persone che desiderano il suo insegnamento. Nell'esecuzione della sua missione, la Chiesa non fa alcuna distinzione di sesso, né di razza, né di popolo». Inizia così, cari amici, un'opera di disobbedienza civile che i nazisti stroncano un anno dopo, deportando tutti gli studenti ebrei. Contemporaneamente scoppia la questione della pubblicazione sui quotidiani cattolici degli annunci di questo movimento nazionalsocialista olandese. Questi annunci vengono rifiutati, anche se si tratta di inserzioni a pagamento. Direi, quanto ci insegna oggi questa cosa, eh? Oggi non si rinuncia a nulla, Qualunque cosa sia, purché sia pagata, purtroppo. Questi annunci vengono rifiutati, dicevamo, anche se si tratta di inserzioni a pagamento. Il Ministero della Propaganda allora informa che è vietato rifiutare, dato che quegli avvisi, secondo loro, non contengono nulla di disonorevole né per persone né per gruppi. In realtà, cari amici, contengono molto peggio, cioè la propaganda e l'apologia del nazismo e delle sue organizzazioni. Ma padre Tito, che non è uno che le cose le manda a dire, cosa fa? Scrive una circolare, un'ulteriore circolare, e scrive. Ovviamente sapeva già che scrivendo avrebbe poi attirato le ire dei tedeschi, infatti vedremo cosa succede. Scrive così. Scrive questa circolare ai giornali cattolici, lui era il presidente. Le direzioni e le redazioni sappiano che dovranno rifiutare formalmente tali comunicati se vogliono conservare il carattere cattolico dei loro giornali. E questo anche se un tale rifiuto conducesse il giornale ad essere minacciato, ad essere multato, ad essere sospeso temporaneamente o anche definitivamente. Non c'è niente da fare, scrive padre Tito. Con questo siamo giunti al limite. In caso contrario, scrive, non dovranno più essere considerati cattolici e non dovranno i giornali e non dovranno né potranno più contare sui lettori e sugli abbonati cattolici e dovranno finire nel disonore. Questa è una lettera circolare del 31 dicembre del 41. Ovviamente, cari amici, non erano passati 15 giorni che la polizia faceva ricercare il padre, che era assente in quel momento per motivi di ufficio, per le mansioni che svolgeva. Quindi non riuscirono a rintracciarlo prima del 19 gennaio. Egli è appena rientrato in convento da un lungo viaggio, quando si presentano due agenti della Gestapo che, spacciandosi per studenti, chiedono un colloquio urgente con il nostro beato. Ricevuti con la solita cordialità e premura che il padre riserva ai suoi studenti, questi due gli intimano dicendo: «Dovete seguirci ad Arnhem col treno delle 18.30. Prima però vogliono perquisire la sua camera. Mentre rovesciano tutto e affastellano in una valigia lettere e documenti, il padre prepara in silenzio la borsa da viaggio. Poi, non senza ironia, dice ai due: «E allora, signore, i treni olandesi non sono usi ad avere ritardo, neppure per attendere i poliziotti tedeschi». E qui dobbiamo dire che i vescovi olandesi, che egli aveva rappresentati nella lotta, gli avevano soprattutto detto: «In caso di arresto mettete tutto sul conto nostro, quindi dà a noi la responsabilità di questo comando, cioè di quanto tu hai scritto, di quanto tu hai fatto, addosso a noi tutte le responsabilità». Ma il padre ha deciso di rispondere di tutto personalmente, perché credeva profondamente in quello che faceva. Condotto in un gelido carcere, vi entrò affermando con bonaria ironia: «Non è da tutti essere messi in prigione dopo 60 anni di vita onesta». L'accompagnatore non capì la battuta, la credette un lamento e disse: «Se non volevate finirci, non dovevate accettare gli ordini dell'arcivescovo». Così, senza volerlo, sanzionavano il fatto che egli era là per la sua obbedienza alla Chiesa. E infatti, padre Tito rispose che considerava un onore l'essere stato arrestato per quel motivo. Il processo, a carico del nostro beato, cominciò all'Aia il 21 gennaio del 42. Lo interrogava il capitano Hardegen della polizia speciale, appartenente alle SS. Si cominciò quindi con una minuziosa ricostruzione di tutti i suoi viaggi, degli incarichi svolti per mandato dei vescovi, soprattutto di quelli relativi alla stampa, che era poi la cosa che dava più fastidio ai nazisti. Poi si venne alle contestazioni di fondo. Padre Tito insistette in ogni modo nel difendere le posizioni assunte dall'episcopato, quindi dai vescovi. Disse più volte: «La Chiesa Cattolica segue le ordinanze della forza di occupazione e delle autorità olandesi soltanto fino a quando non contrastano con i fondamenti della sua fede. Quando sorgono contrasti sui fondamenti dottrinali, allora la Chiesa rifiuta la sua collaborazione e ne accetta le conseguenze». E concluse: «Ebbene, il contegno dell'episcopato olandese lo faccio mio». Il giorno dopo, il capitano pretese da padre Tito una risposta scritta a questa domanda: perché il popolo olandese, specialmente nella sua parte cattolica, si oppone al movimento nazionalsocialista olandese? Il padre doveva scrivere chiaramente, con tutta tranquillità. Gli concessero anzi, per l'occasione, tutto il necessario per poter fumare anche la sua pipa, come era da sempre sua abitudine. Senza farsi pregare, egli stese 9 cartelle fitte con calligrafia minuta. Rispose che il Partito Nazionalsocialista olandese rinnegava le tradizioni del popolo olandese, rinnegava la sua storia, rinnegava soprattutto quei principi cristiani che erano radicati nel cuore stesso della sua gente. Spiegò che nei secoli in cui la fede degli olandesi fu oppressa, tanti di essi avevano sacrificato con entusiasmo la loro posizione sociale, i loro possedimenti, la famiglia e persino la vita, e gli avvertì che molti erano disposti a dare anche adesso la vita per professare la loro fede qualora questa venisse oppressa. Aggiunse anche che gli olandesi rifiutavano quel partito perché era succube della Germania in maniera misera e infantile, per l'estrema arroganza e per l'enorme incompetenza di tanti suoi dirigenti, e concludeva: «L'amore per la libertà è grande nel nostro popolo, tanto grande. Il nostro popolo è realista, posato, soffre e ha fiducia. Attende tranquillo il giorno in cui sarà nuovamente libero. Desidera ardentemente quel momento. L'Olanda è ancora sempre l'Olanda». In seguito, a un compagno di prigionia confiderà: «Sapevo in quel momento di firmare la mia condanna a morte». E qui, nel rapporto annuale sulla situazione olandese, inviato a Berlino dalla polizia di sicurezza, il nostro beato viene più volte indicato come l'organizzatore di una capillare attività antinazista, e il suo arresto viene anzi definito necessario, perché la sua opera è destinata a mettere in pericolo la reputazione del governo tedesco e del nazionalsocialismo, e addirittura a minare l'unità del popolo olandese. Con molta sollecitudine il capitano Hardegen dell'SS consiglierà un lungo arresto di protezione del professor Brandsma, sia a protezione del partito che degli altri. Gli faceva comunque l'onore di riconoscere che questo professore è veramente un uomo di carattere, con una ferma convinzione, e soprattutto chiariva che il prigioniero intendeva proteggere il cristianesimo contro il nazionalsocialismo. Con la loro solita precisione, gli aguzzini tedeschi preparavano così tutte le prove e tutta la documentazione necessaria perché la Chiesa riconoscesse un giorno la santità e il martirio di questo suo figlio. E proprio nella sua cella padre Tito cominciò a scrivere un diario meraviglioso. Scrisse così: «La vocazione per la Chiesa e il sacerdozio mi hanno arricchito di tante dolcezze e di tante gioie, che ora accetto volentieri tutto ciò che mi può sembrare sgradito. Ripeto con Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia sempre benedetto il nome del Signore. Benché non sappia come andrà a finire, so bene che mi trovo nelle mani di Dio. Chi mi potrà mai separare dall'amore di Cristo? Certamente mi mancano la messa e la comunione, ma Dio è ugualmente vicino a me, in me e con me. Mi è di consolazione e di sprone il celebre passo che Santa Teresa teneva nel suo breviario: nulla ti turbi, tutto passa, solo Dio basta». Riflette che come monaco dovrebbe essere abituato a stare in cella, quella cella che l'imitazione di Cristo definisce dolce e commenta il nostro padre, scrive: «Sì, ma quando si viene messi nella cella di una prigione la sera tardi e la porta viene chiusa dal di fuori con tanto di catenaccio, si resta quantomeno perplessi. Poi il fatto di andare a finire in carcere alla mia età avanzata mi spingeva piuttosto a sorridere per il lato umoristico della vicenda, più che a rattristarmi per la sua tragicità. La polizia gli aveva detto che si trattava solo di una notte, tanto che quando gli portarono la biancheria da letto, la mattina dopo, dopo una notte in cui aveva dormito su un pagliericcio sporco, fece notare che ormai non serviva più. «La prenda», gli disse il giovane carcerato che la distribuiva. «Anch'io credevo di starci solo 3 giorni, ma probabilmente ci starò 3 anni». E quindi, sul tavolino della cella, mise bene in vista le sue 3 immagini del breviario, che era Gesù in croce del Beato Angelico al centro, Santa Teresa d'Avila a destra, San Giovanni della Croce a sinistra. Sulla mensoletta sopra il letto teneva il breviario, aperto là dove c'era una bella illustrazione della Madonna del Carmine con la scritta «Speranza di tutti i carmelitani». Così, cari amici, quella cella di prigione era diventata davvero per lui come la cella del convento. E scrive: «Mi trovo in questa cella come a casa mia. Beata solitudine. Sono solo, è vero, ma mai il Signore mi è stato così vicino. Sento la voglia di gridare per la gioia perché Egli di nuovo nella sua pienezza si è fatto trovare da me. Non attendo nessuno e nessun uomo può venire da me. Dio è il mio unico rifugio e mi sento protetto e felice. Rimarrò sempre qui se Egli così dispone. Raramente sono stato così felice e contento». E proprio in carcere iniziò a scrivere la vita di Santa Teresa, che aveva promesso una casa editrice. Ma depereva a vista d'occhio. Quando lo pesarono, tutto vestito, la bilancia segnò 56 chili. Soffriva già di una seria infezione alla vescica causata da colibacilli. E la stagione rigida, fredda, non l'aiutava. Infatti, scrisse nel suo diario, nelle giornate più fredde, tremo continuamente. Ma in quel primo carcere, cari amici, pensate che la vita era ancora abbastanza umana. La situazione peggiorò molto quando lo trasferirono ad Amersfoort, una prigione che i tedeschi avevano attrezzato come campo di passaggio prima delle deportazioni. Questo campo, cari amici, era già un vero lager, dove erano ammassati i prigionieri politici identificati da un triangolo rosso, i cosiddetti comunisti, tra i quali gettato anche padre Tito. Poi gli ostaggi olandesi, gli ebrei, gli esegeti, che appartenevano a una setta religiosa, gli ufficiali dell'esercito olandese. Un altro gruppetto era costituito da 160 prigionieri russi. Durarono poco. Vennero infatti lasciati per 3 giorni nudi al gelo. Ne morì la metà in 2 mesi, gli altri furono tutti torturati e uccisi. Qui il padre cominciò a intravedere la croce che la attendeva. Ogni domenica i cattolici gli si radunavano attorno e lui, seduto sul letto più alto, parlava tranquillamente. Sembrava una normale conversazione, ma in realtà egli pronunciava lentamente le parole della Santa Messa. Non avevano il necessario per celebrare una vera Eucaristia, ma padre Tito recitava a memoria le preghiere, poi commentava un brano evangelico, poi c'era la comunione spirituale. Egli li fissava uno per uno negli occhi e per ciascuno diceva la formula che allora si usava per la distribuzione dell'ostia santa, cioè: «Il corpo di nostro Signore Gesù Cristo custodisca la tua anima per la vita eterna. Amen». E a far la guardia, per avvertire se i sorveglianti si avvicinavano, si erano offerti proprio i comunisti. Alla sera poi, ciascuno, ecco qui il padre, il vero papà, riceveva ancora la benedizione e un segno di croce in fronte. Arriviamo al Venerdì Santo del 1942. I guardiani del campo si danno a un'orgia sfrenata, poi mettono una corona di spine fatta con fili di rame sulla testa di un sacerdote e costringono i prigionieri a cantare l'inno o capo coronato di pungenti spine. Intanto un ebreo è obbligato a fare il racconto della crocifissione. Alla sera di quel terribile giorno, il padre tiene segretamente una meditazione sul mistero della sofferenza. E raccontiamo qui, cari amici, proprio quello che scrive un testimone presente in quel momento, che era vicino a padre Tito, e racconta così. Attorno a lui, attorno a padre Tito, i prigionieri erano sulle brande disposti in tre file. Tutta la baracca puzzava di zoccoli marci, di vesti sudici e di sudore. Quegli uomini, dalle teste rapate, lo guardavano con gli occhi spenti e un po' sinistri. Esattamente davanti a me, in piedi sopra una cassetta vuota di patate, il professor Tito, nella sua grigia uniforme, ci parlò della passione. Le parole che gli uscivano direttamente dal cuore scendevano fino in fondo, e tutta la baracca taceva, mentre quel gracile uomo grigio meditava ad alta voce da sopra la sua cassa. I suoi occhi, dice questo testimone, brillavano dietro le grosse lenti e facevano dimenticare il resto della sua cinciosa e meschina figura. Il silenzio si fece quasi oppressivo. Ciascuno di noi lottava con i suoi problemi e la sua miseria, ma padre Tito dava a tutti una soluzione: il nostro amore per Dio. Disse: in questo giorno ci deve essere in noi un'atmosfera di felice riconoscenza, perché possiamo vedere la passione di Cristo unita alla nostra sofferenza. Raccontò anche uno dei suoi ascoltatori: siamo ritornati in silenzio nelle nostre baracche. Nessuno parlava, ma lo Spirito di Dio ci aveva sfiorati. Altri dissero poi che quello era stato il momento più bello della loro prigionia. Qui però i guardiani subodorarono qualcosa di questa strana riunione e l'indomani padre Tito fu punito. Toccò a lui infatti trascinare il pesantissimo rullo che serviva a spenare la ghiaia sulla strada. E al campo, pensate, tanto l'affetto che hanno per lui che tutti lo chiamano zio Tito. Gli chiedono conforto ebrei, protestanti, comunisti, atei, e tutti ogni mattina lo ascoltano mentre seduto al centro del camerone racconta la vita del santo del giorno. Anzi, si lamentano perché vorrebbero racconti più lunghi. Voi pensate a questo uomo che praticamente malaticcio, grandemente malato, con poche forze, cerca, non guarda tanto a sé, ma guarda soprattutto a spendere la sua vita per tutti i fratelli che è intorno, cercando di dare quello che può, soprattutto l'amore di Gesù in questo momento. Un giovane prigioniero, poiché Tito si rammarica a volte d'aver dimenticato la corona del Santo Rosario quando la Gestapo lo ha trascinato via dal convento, gliene fa una con dei pezzetti di legno e di rame, gli costruisce quindi questo rosario un po' particolare. Restò comunque in quell'orribile carcere fino al mese di maggio, ma ormai non sperava più negli uomini. Diceva: non mi molleranno più e andrò certamente o a Orenburg o a Dachau, da dove non si torna. Giunse infatti la decisione delle SS di trasferirlo a Dachau. Disse lui a questo proposito: mi hanno comunicato che mi tengono prigioniero per precauzione a causa del mio contegno antitedesco. Temono che farei cattivo uso della mia libertà agendo contro la Germania. Sanno che è molto malato, ma il solito capitano Hardegen delle SS spiega che a Dachau, nel lager di Dachau, le cure ai prigionieri sono gratuite, perché si tratta, dice testualmente, di un istituto di solidarietà umana. Questo viene definito il campo di Dachau. Padre Tito commenta in una lettera al fratello queste frasi: ho messo tutto nelle mani di San Giuseppe, che ha portato il piccolo Gesù dall'Egitto a Nazareth. Come Gesù è la Madonna, mi affido alla sua potente protezione. Unisciti anche tu a me nelle preghiere. E nel cuore custodisce quel consolante pensiero che è alla radice stessa della sua fede: Dio è dovunque, e soprattutto a Dachau. Lo fermarono nel carcere di Cleve in attesa di essere smistato. Partivano una quarantina di prigionieri ogni settimana. Il cappellano del carcere, che lo conobbe nei giorni di questa triste attesa, disse di lui: Dio mi ha concesso la grazia di incontrare un uomo pieno di fede. Partì in catene il 13 giugno del 1942 e le ultime parole che quel cappellano udì pronunciare da Tito furono: non può accadermi nulla di male perché il Signore mi accompagna. Di questo aveva una certezza assoluta, tanto più che la sera precedente aveva potuto fare la Santa Comunione. Quando giunse al campo, il 19 giugno del 42, il primo incontro fu con un capoblocco, uno dei famigerati capò, che nutriva un odio particolare verso i sacerdoti. Cominciò quindi a percuoterlo con una tavola, tanto per fare conoscenza, e durante la marcia si divertiva a dargli calci nei talloni, fino a farglieli sanguinare. Il trattamento gli fu poi riservato sistematicamente ogni giorno, ci viene detto. Vedendolo così mal ridotto, una SS gli disse di non preoccuparsi, perché presto, gli disse, avrebbe potuto festeggiare la sua ascensione passando per il cammino del forno crematorio. E qui gli toccò il numero 30.492, perché tanti erano i prigionieri che lo avevano preceduto. Quando, pensate, a fine del 45 il campo verrà smantellato, il numero sarà arrivato a 180.000, senza contare quelli uccisi subito prima di ricevere un numero. Un giorno giunsero in una sola volta più di 1.000 sacerdoti polacchi. Comunque questo campo era diviso in 30 blocchi, tre dei quali erano per gli ecclesiastici. Ogni blocco aveva 4 camerate doppie, ogni camerata doveva contenere 100 prigionieri. Arrivarono però cari amici anche a 350, tanto che più persone dovevano dormire in una stessa branda, ma del resto erano talmente magri che riuscivano probabilmente anche a starci. La vita in quel campo era veramente infernale. Dovevano lavorare come forzati per 13 ore al giorno e non c'erano né domeniche né giorni di riposo. Tra lavoro, marce e appelli, la giornata di un'estenuante fatica cominciava alle 4 del mattino e finiva alle 9 di sera. Come cibo 250 grammi di pane per mattina e sera e a mezzogiorno una scodella di acqua calda con una manciata di cavoli rossi o di bietole, qualche volta una patata. E la fattoria dove il padre doveva recarsi a lavorare ogni giorno per una coltivazione di erbe mediche, ma bisognava dissodare, zappare, trasportare pietre, era chiamata Villa dell'Amore. Benché gli altri sacerdoti cercassero di aiutarlo in ogni maniera, dovevano sostenerlo già durante la marcia, infatti non reggeva quel ritmo, ancor più aggravato dalle continue e crudeli punizioni, calci, pugni e frustati fino al sangue. Gli altri dicevano che era trattato come il Cristo flagellato, ma non c'era modo, cari amici, che gli uscisse dalla bocca una critica verso i suoi aguzzini. Disse anzi di un sorvegliante che gli aveva fatto sanguinare la bocca colpendolo con una gavetta, disse: «Poveretto, mi fa tante pietà, non posso volergli male». Si affidava in cuor suo e profondamente ai suoi amori più cari, la Madonna del Carmelo e l'Eucaristia. Racconta un suo confratello. La sera, tornando sfiniti dal lavoro e frequentemente anche dalle percosse, Tito mi diceva: «Fratello, Maria deve aiutarci e sostenerci. Se essa allunga la mano sopra di noi, potremo sopportare molto». E prezioso, cari amici, era soprattutto il sostegno dell'Eucaristia che riuscivano ad avere quasi ogni giorno dai sacerdoti tedeschi prigionieri sempre nel campo, ma ai quali era concesso un po' più di libertà. E qui una particella dell'Eucaristia la conservava fino al giorno dopo nella custodia degli occhiali. Col resto si comunicavano anche in 10, rischiando ogni volta le più crudeli punizioni se venivano scoperti. La notte, in cui per molte ore non riusciva a dormire, il nostro beato la passava adorando, pensate, quel pezzetto di ostia santa e affidandogli la sofferenza di tutti. Diceva che anche Gesù Eucaristia era un grande prigioniero. Un giorno, che lo avevano picchiato più duramente del solito, chiamandolo ad ogni percossa sacco di escrementi, a chi gli domandava se avesse molto sofferto rispondeva: «Fratello, io sapevo chi avevo con me, ed era tutto contento, perché prima di cadere a terra era riuscito a nascondere sotto l'ascella proprio quell'astuccio da occhiali che era diventato il suo ciborio». E un pastore protestante, che lo conobbe, lo ammirò in quel lager, lo amò in quel lager, disse che il padre era riuscito ad avere il paradiso del cuore nell'inferno del campo e a diffondere attorno a sé la pace e la gioia di Gesù. Era talmente sfinito che i suoi confratelli di prigionia un giorno ritennero opportuno raccomandarlo al capo della sezione ospedaliera per un ricovero. Ma qui quest'aguzzino si mostrò anche troppo disposto ad aiutarli. Tito venne portato via e non lo rividero più. Tutto quello, cari amici, che avvenne dopo lo sappiamo oggi da una testimone di eccezione, una testimone il cui nome non è stato rivelato perché è ricercata dalla Polizia Internazionale, accusata di aver procurato la morte di migliaia di deportati. E fu proprio lei a uccidere padre Tito, e si convertì proprio perché il ricordo di lui, di questo beato, non l'ha più abbandonata. Allora era una ragazza che faceva l'infermiera, ma obbediva per paura agli ordini disumani dell'ufficiale medico. A lei toccavano in pratica tutte le esecuzioni. Oggi ci viene detta una donna molto anziana ed allora vive nel pentimento e nel tormento del suo passato. È stata proprio lei a raccontare nel segreto che Tito al suo arrivo in infermeria era già nella lista dei morti. È stata lei a raccontare gli esperimenti che si facevano sui malati, anche su padre Tito, e di come le si scolpivano dentro, senza che lo volesse, le parole con cui egli sopportava i maltrattamenti. Il nostro beato sopportava quello che gli veniva fatto. Non l'unica cosa, l'unica frase che gli usciva era: «Padre, sia fatta non la mia volontà, ma la tua». È stata sempre lei a raccontare come tutti i malati la odiassero e la insultassero sempre con i titoli più infamanti, e come fosse rimasta scossa perché invece quell'anziano prete la trattava con la delicatezza e il rispetto di un padre. Una volta, disse, mi prese la mano e mi disse: che povera ragazza è lei, io pregherò per lei. E a lei che il prigioniero, che è il nostro padre, regalò la sua povera corona del rosario fatta di rame e di legno, e quando lei irritata ribatté che quell'oggetto non le serviva perché non sapeva pregare, il padre le disse: non occorre che tu dica tutta l'Ave Maria, di soltanto prega per noi peccatori. Ed è a lei, cari amici, che quel 26 luglio 1942 il medico del reparto diede l'iniezione di acido fenico perché glielo iniettasse in vena. Era un gesto di routine. L'infermiera l'aveva ormai compiuto centinaia e centinaia di volte, ma questa poveretta, possiamo chiamarla così, ricorda: tutto quel giorno mi sentii male. L'iniezione venne fatta alle 2:10, alle 2 padre Tito morì. Ero presente quando spirò, dice questa infermiera. Il dottore era seduto vicino al letto con uno stetoscopio per salvare le apparenze. Quando il cuore cessò di battere mi disse: questo maiale è morto. E dei suoi aguzzini, dicevamo, padre Tito aveva solo detto: sono anch'essi figli del buon Dio e forse rimane in loro ancora qualche cosa di buono. E proprio il Signore gli concesse quest'ultimo miracolo. Il dottore del campo chiamava sarcasticamente quell'iniezione di veleno iniezione di grazia. Ed ecco che proprio mentre l'infermiera la iniettava a padre Tito, proprio la sua intercessione, l'intercessione del padre, infondeva davvero in lei, in questa donna, la grazia di Dio. Ai processi canonici questa donna spiegò che il volto di quel vecchio prete le era rimasto impresso nella memoria per sempre perché proprio in quel volto aveva letto qualcosa che lei non aveva mai conosciuto. Disse semplicemente: lui, padre Tito, aveva compassione di me, come Cristo. E vorrei concludere, cari amici, la presentazione di questa bella vita con le parole di Giovanni Paolo II durante proprio il 3 novembre del 1985, quando c'è stata la beatificazione del padre, e durante l'omelia Giovanni Paolo II pronunciò queste parole: le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. La Chiesa, dice il Papa, ascolta questa parola nel giorno in cui eleva alla gloria degli altari Tito Brandsma, figlio dei Paesi Bassi, religioso dell'ordine carmelitano. Matura ancora una volta la gloria degli altari, un uomo che è passato attraverso il tormento del campo di concentramento, quello di Dachau. E proprio in mezzo a questo castigo, in mezzo al campo di concentramento, che rimane il marchio infamante del nostro secolo, Dio ha trovato Tito Brandsma degno di sé. Sì, dice il Papa, Dio l'ha provato. Gli ex deportati dei campi di concentramento sanno molto bene quale calvario umano furono quei luoghi di castigo. Luoghi di grande prova dell'uomo, la prova delle forze fisiche, spinta spietatamente fino al completo annientamento, la prova delle forze morali. Non rispondere all'odio con l'odio, ma con l'amore, questa è forse una delle più grandi prove delle forze morali dell'uomo. Da questa prova, Tito Brandsma è uscito vincitore. In mezzo all'imperversare dell'odio, egli ha saputo amare. Tutti, anche i suoi aguzzini. Sono anch'essi figli del buon Dio, diceva, e chissà se qualche cosa rimane in loro. Certo, dice il Papa, un simile eroismo non si improvvisa. Padre Tito lo andò maturando nel corso di tutta una vita, a partire dalle prime esperienze dell'infanzia, vissuta in seno a una famiglia profondamente cristiana, nell'amata terra della Frisia. Dalle parole e dagli esempi dei genitori, dagli insegnamenti ascoltati nella chiesa del villaggio, dalle iniziative di carità sperimentate nell'ambito della comunità parrocchiale, egli imparò a conoscere e a praticare il fondamentale comandamento di Cristo sull'amore verso tutti, non esclusi gli stessi nemici. Fu un'esperienza che lo segnò in profondità, fino ad orientarne tutta la vita. Le attività che il padre Brandsma svolse nel corso della sua esistenza furono di una sorprendente molteplicità, ma se si volesse cercarne il motivo ispiratore e il centro propulsore, lo si troverebbe proprio qui, nel comandamento dell'amore, portato fino alle estreme conseguenze. Padre Brandsma fu innanzitutto professore di filosofia e di storia della mistica all'Università Cattolica di Nimega, provvedendo alla formazione scientifica di una vasta schiera di studenti. Non v'era barriera che potesse fermare lo slancio di carità da cui era animato il grande carmelitano. È ancora l'amore che spiega l'impegno con cui egli promosse il movimento ecumenico, in atteggiamento di costante fedeltà verso la Chiesa e di totale lealtà verso gli appartenenti alle altre confessioni. Colpito da una così luminosa testimonianza di coerenza evangelica, un pastore protestante ebbe a dire di lui: «Il nostro caro fratello in Cristo Tito Brandsma è davvero un mistero della grazia». Padre Tito stesso, dice, continua Giovanni Paolo II, padre Tito stesso del resto era pienamente conscio di dovere tutto alla grazia, cioè alla vita divina che operava in lui. La parola di Cristo, senza di me non potete far nulla, costituiva per lui il principio orientatore delle scelte di ogni giorno. Per questo pregava intensamente, diceva, la preghiera è vita, non un'oasi nel deserto della vita. Professore di storia nella mistica, egli si studiò di vivere la disciplina che insegnava in ogni momento della sua vita. Non si deve porre nei nostri cuori, diceva, una divisione tra Dio e il mondo, ma si deve guardare il mondo avendo sempre Dio sullo sfondo. Di questa profonda unione con Dio scaturiva nell'anima del padre Brandsma una costante vena di ottimismo che gli attirava la simpatia di quanti avevano la ventura di conoscerlo e che non lo abbandonò mai. Lo accompagnò anche nell'inferno del lager nazista. Fino alla fine egli restò per gli altri prigionieri un motivo di sostegno e di speranza. Per tutti aveva un sorriso, una parola di comprensione, un gesto di bontà. La stessa infermiera, dice il Papa, che il 26 luglio del 42 gli iniettò il veleno mortale, testimoniò più tardi di aver sempre vivo nella memoria il volto di quel sacerdote che aveva compassione di medice. E conclude Giovanni Paolo II, e il volto del padre Tito Brandsma sta oggi anche davanti a noi che ne contempliamo il sorriso luminoso nella gloria di Dio. Egli parla ai fedeli della sua terra, i Paesi Bassi, e a tutti i fedeli del mondo per riaffermare ancora una volta quella che è stata la convinzione di tutta la sua vita. Benché il neopaganesimo non voglia più l'amore, l'amore si riguadagnerà il cuore dei pagani. La pratica della vita lo farà essere sempre nuovamente una forza vittoriosa che conquisterà e terrà legati i cuori degli uomini.